Della psicanalisi non ho mai avuto gran stima, troppe pretese scientifiche prive di fondamento, troppa disinvoltura nel considerare sintomo di una patologia qualsiasi cosa torni comodo, troppa voglia di accomodare disparità sociali e di genere, nonché troppa vaghezza nel definire metodi e limiti della terapia. Tuttavia, spesso mi è capitato di trovare nei saggi dei padri fondatori più di un'analisi illuminante. Nei giorni scorsi, per esempio, mi è capitato di leggere quel saggio di Victor Tausk, un saggio scritto nel 13, l'invalidazione del motivo di rimozione attraverso una ricompensa, e di imbattermi in un problema di amnesia risolto, se risolto è la parola giusta, risolto davvero brillantemente. Allora, Tausk parte dalla constatazione che ogni tanto capiti agli esseri umani di voler rimuovere ricordi particolarmente fastidiosi, di dimenticare cose che hanno rappresentato un'esperienza dolorosa e che dunque in certi casi questa rimozione appaia nel discorso come una vera e propria amnesia. Bene, nota Tausk come sia molto probabile che nel caso, prima o poi durante il prosieguo del discorso, il ricordo riemerga, questo sarà preceduto da un altro ricordo, questa volta piacevole, un'associazione che in qualche modo funga da ricompensa per il dolore che si va a rivangare. Fra i vari esempi raccontati di Tausk, uno è bellissimo, ma data la sua complicatezza cercherò qui adesso di ridurlo, diciamo, ai suoi elementi fondamentali. Allora, sta parlando con un suo paziente sulla vita sessuale dei suoi tempi e, come era prevedibile, il discorso finisce sulla prostituzione. Avevo 16 anni, dice il paziente, avevo 16 anni allorché un mio compagno mi informò dell'esistenza di tali donne in via, ora mi sfugge il nome della via, ma in che via, scusi, lo incalza subito l'analista, in via, comunque si trattava del nome di una battaglia, si difende il paziente. E qui inizia un lungo e tortuoso percorso di associazioni nella speranza di far saltar fuori il nome della via dimenticata. Salta fuori Lissa, Custoza, nomi di posti in cui gli austriaci hanno sconfitto gli italiani, Tegetthoff, l'ammiraglio Tegetthoff, il nome di quello che comandava la flotta a Lissa, a cui guarda caso in Vienna hanno eretto un monumento proprio nei pressi di via Custoza. Poi viene fuori Canossa, e altri ricordi di cultura scolastica. Ah sì, a Canossa il re si è umiliato innanzi al Papa e lui, il paziente che sta parlando, lui che è professore in un liceo cittadino, proprio l'altro giorno ha detto ad una collega, una bella collega, che quanto all'emancipazione femminile, lui a Canossa c'è già stato, che in pratica vuol dire che come maschio ha già espiato e che quindi può anche piacere sessualmente ad una donna emancipata, proprio come questa sua collega. E con questa compiaciuta ricompensa, con questo pensiero autovalorizzante, che il paziente può finalmente recuperare il nome dimenticato della via, una via dove da quel primo tentativo di rapporto con una prostituta peraltro non aveva ricavato granché di buono, tanto da aver subito inconsciamente l'esigenza di rimuovere con il ricordo dell'episodio anche il nome della via in cui l'episodio era avvenuto. Ecco in che via erano le prostitute, erano in via Novara. Due settimane or sono ho raccontato delle mie angosciose vacanze natalizie. Un improvviso vuoto in bocca la mattina della vigilia di Natale mi aveva avvertito della perdita di un ponte. Da qui ricerche affannose, sotto il letto, fra le coperte, perfino nel sacchetto dell'aspirapolvere. e attese preoccupate, radiografie all'esofago, dall'intestino e soprattutto varie teorie variamente umilianti. Potevo averlo inghiottito ed evacuato senza rendermene conto, come potevo averlo eiettato, che so, in uno starnuto, perso in un sorriso. Nel cercare di far quadrare la vicenda avevo anche anteposto l'evento a giorni prima, allorché in un momento di particolare disagio avevo partecipato ad una festa natalizia dove, gioco forza, ero stato ingaggiato in un improbabilissimo e per me stonatissimo, umiliantissimo karaoke. Nelle feste tutto può accadermi, mi dicevo, e lì, dove di rimozioni da fare ne avevo a iosa, mi ero perso perfino il ponte. Passate le feste ormai da un pezzo, le ricerche sono rimaste infruttuose e nessuno si è presentato con il mio ponte in mano a chiedermi la meritata ricompensa per avermelo ritrovato. Per l'ennesima umiliazione, dunque, ho telefonato alla mia dentista, dentista femmina. Ogni volta che le parlo, mi viene in mente quel saggio della Marie Bonaparte sull'uomo e il suo dentista. Lì, ecco, fra l'altro, la sagace psicoanalista spiega che per l'inconscio del bambino il dolore della castrazione simbolica del dente caduto o tolto è seguito dal trionfo della rifallizzazione simbolica rappresentata dalla crescita del dente adulto, e che quindi quanto fanno oggi i dentisti per l'adulto, è paragonabile a quanto fa così generosamente la natura per il bambino al momento della seconda dentizione. Se l'antico dentista, in quanto semplice cavadenti, rappresentava soltanto funzioni castratorie, quello odierno, abilissimo costruttore di protesi, rappresenta funzioni rifallizzanti, diciamo così, e almeno, aggiungo io, fino a quanto le protesi stanno al loro posto. Rimuginando fra me e me questi pensieri, gliel'ho detto. Impotente e rassegnato, ho accettato l'idea di ricomparirle davanti. Lei convinta di rifarmi la protesi persa, io convinto di ratificare la mia sconfitta in uno stato di prostrazione che a nessun prezzo, lei avrebbe potuto distogliermi dal rifiutare. In una celebre lezione del 26 aprile del 1955, lo psicanalista francese Jacques Lacan, analizzando la lettera rubata di Edgar Allan Poe, affermava che è l'ordine simbolico ad essere per il soggetto costituente e che dunque quella lettera che il protagonista del racconto di Poe ritiene rubata prima di ritrovarla esattamente dove doveva essere, quella lettera materializza l'istanza della morte. In quello che ritenevo un vano tentativo di rendere meno grigio il mio futuro, ridisteso per l'ennesima volta sulla lunga poltrona della mia dentista, ho aperto la bocca. Lei ha guardato un attimo e mi ha chiesto: qual è, scusi, il ponte che ha perso? Io ho alzato la mano destra, ho teso l'indice e l'ho infilato nel vuoto della mia arcata superiore sinistra. Lei allora ha detto: il ponte è lì, al suo posto, esattamente dove gliel'avevo messo, e non le manca proprio nulla. Quanto era stato umiliante l'esperienza del perderlo, era poca, pochissima cosa nei confronti dell'umiliazione patita nel ritrovarlo. Dovrò riflettere a lungo su questo cruciale episodio della mia esistenza e ora come ora non ho la più pallida idea delle conclusioni che ne trarrò. Così come l'amnesia di via Novara rappresentava l'esigenza di svuotare almeno di qualcosina il pesante fardello delle proprie sconfitte, questo mio lapsus percettivo qualcosa di grave, di gravissimo vorrà pur dire. Lascio agli appassionati di psicanalisi il compito di tirare le somme sulla mia vita sessuale e mi rendo conto di quanto il mio ponte, cadendo, scomparendo alla mia percezione cosciente, avesse lasciato un vuoto incolmabile nella mia bocca, ma al contempo avesse colmato il vuoto angosciante delle feste natalizie. Il che per me, ecco, che per me, che non ho alcuna intenzione di dar retta a Lacan, abbandonandomi alle sue istanze di morte, beh, per me è stato già un risultato di non poco conto.